movimento intorno a me, nel movimento dentro me. Osservo il mondo intorno, niente di buono sai, niente di nuovo mai. E aspetto, aspetto il sole dentro, che porti via le nuvole, che troppo spesso vedo dentro me. Sento che sale dentro di me, la luce dei miei occhi, sento il calore fuori e dentro di me, sento il calore fuori e dentro di me. Cerco e cerco il mio momento, non importa quanto tempo ormai, non importa quanto ancora sai. Mi guardo allo specchio, vedo i segni del tempo che si fanno strada troppo in fretta dentro me. Movimento dentro me. E adesso io sento il sole dentro, non vedo più le nuvole, non sento più le ombre dentro me. Sento che sale